poca gente, ma in tutta Italia il numero dei CB si è dimezzato in maniera drastica proprio, veramente, no? Non è a dire solamente qua a Sassari oppure Sardegna, no, è dappertutto che ormai le persone hanno abbandonato questa frequenza, per cui non riesco a concepire come mai loro tengano sempre i prezzi altissimi. Comunque, bella la loro. Noi quello che abbiamo ci basta. Avanti Marco. Eia, un altro esempio veloce. Quel baracchino Linco, multicanale, AMFM, SB, Eco, autoascolto, quello che ha tutto, no? Media Globe è 180 euro circa, sempre più la spedizione, no? 180 Media Globe che l'ha finito, 2,39 Amradio Shop, cioè da 180 euro a 2,40 fai, per dire, caspita, 60 euro di differenza mi su un apparecchio, è un'enormità, va bene. Poi dipende cosa compri, però ho segnalato un antennino a Claudio, un'antenna veicolare a Claudio che gli serviva, e, che ne so, da un altro venditore, costa meno, da HRS, prezzo pieno, siamo sempre lì. FLQ elettronica, diciamo invece che non è economico, ma non è neanche dei più cari, diciamo che ha un prezzo che potrei azzardare a dire equo tra virgolette, no? Mi ricollego a quello che hai detto tu, Giulio. Forse sai cos'è l'oro, io vorrei sapere, il negoziante quanto lo paga ogni singolo apparato CB per esempio? E a quanto lo rivende? Cioè vorrei sapere quanto ci fanno in più, il 50% di carico, il 100%, cosa ne so. Ma io dico che i commercianti su tutti questi articoli, o quasi tutti, hanno almeno l'80% di profitto rispetto a quello che lo pagano loro. Ne sono più che convinto. Perché non credo che ci sia commerciante che sia accontenti solamente del 50%, no, io ho sempre considerato i commercianti una categoria, tra virgolette, di ladri, l'ho sempre detto, ma non adesso, da sempre, perché noi prendiamo l'esempio, ad esempio, di televisori che una volta, tanto per fare un esempio, caspita, un televisore prima costava 3 milioni e mezzo, un televisore, caspita, da appena 20 pollici, 22 pollici, così vai lo compri 200 euro, per dire no, anche di meno, così è un altro mondo, non è possibile, guarda, tu pensa che c'è quel negozio che c'è lì in via a Rosello, quel negozio qua, io me lo ricordo, una volta era la città mercato, e c'era lui che aveva il carrello pieno, ma non carrello quello piccolino della spesa degli alimentari, no, la pedana, quella grande, la pedana piena di scatoloni di televisori, e lui quelli li aveva comprati lì a Città Mercato per portarli poi in negozio per venderseli lui, perché lui aveva un negozio di elettricità, che c'è ancora quel negozio lì, che è quello in via Rosello, qua, forse lui non c'è più, ma il figlio c'è adesso, per dirti, no. Io ne sono stato sempre più che convinto, e poi lo so, anche perché io ho lavorato, quando ero giovane ho lavorato anche in negozi di elettricità, e so che i materiali che arrivavano li pagavano un quarto, loro li vendevano 4 o 5 volte più forte, più alto il prezzo di quello che lo pagavano loro. Per cui vedi a livello di lampadari, di frigoriferi, di lavatrici, eccetera. Io ci sono stato in mezzo a quell'ambiente e so benissimo come funzionava. Per me il commerciante è sempre stato un ladro, nel vero senso della parola, tra virgolette chiaramente, però sempre di ladri si tratta. Vai Franco. Si conferma, però di questo c'è che loro pagano anche le tasse, tutte queste cose, e l'80% ci guadagnano comunque da ogni articolo praticamente che viene venduto, capito? Perché loro guadagnano le quantità. E c'è anche quello da considerare, ci sono quei negozianti che sono più che hanno più denari e allora comprano più pezzi e hanno anche un ulteriore. Io mi ricordo, guarda, anche quando tanti anni fa compravo la ferramenta da un rappresentante che passava in giro per i negozi, passava per tutte le falegnamerie eccetera, no? Cioè che io ordinavo la ferramenta da questi, ne arrivavo un po' il tutto, maniglie, serrature, carta vetrata, colla, chiodi, viti, tutto quello che mi serviva per il lavoro, no? Che facevo io. Mi aveva raccontato una volta questo rappresentante, perché lì in Via Lurra, tu ricorderai, io Franco, tu sicuramente te lo ricordi, in quel negozio dove c'è quello che vende il vino adesso, Cesare che vende il vino, c'era un negozio di ferramenta, c'era, che era il figlio di lui, il fabbro che c'era lì alle luci gialle praticamente, il figlio, aveva questo negozio lì di ferramenta, aveva aperto. Vicino a 250 metri, 300 metri, a Ponte Rosello, in linea d'aria, c'era allora Palmieri, c'era, no? E questo rappresentante mi aveva detto, dice, sono stato da Palmieri e mi ha detto, se vendevo, che mi avrebbe comprato 10.000 maniglie, tra maniglie, serrature e tutte queste cose qua, purché non avesse venduto a prezzo come lo dai a me, a quella ferramenta che c'è in Via Nurra, dice. Ma te lo immagini? Ci facevano anche questa guerra fra di loro, no? Perché il più forte cercava di mangiarsi il più piccolino, fra. Te lo immagini? Tutta la procedura è giù comunque, tutta la procedura, anche se era di più, quello che l'accusava lo stesso, anche lui ci ha prestiato, roba di inoscenti. Anche in aria non serve, per carità. E anche da Fusaro ormai si è dito alla grande, anche lui, non so io, vede i microfoni già utilizzati o già usati, e il passa per nuovi, ma a parte quello poi, i microfoni addirittura senza la capsula e li vende per nuovi, e già lo sappiamo, ho fregato anche un nostro amico. Infatti io penso che quello ormai ci ripete prima di ritornarci lì, e tutte queste cose non vanno bene, sono tutte cose che il commerciante fa purtroppo, ma lì si tira la zappa ai piedi. Avanti, Marco. Senza capsula addirittura, ho capito bene? Senza capsula, sì. Sì, da Claudio ha comprato un microfono e non c'era la capsula dentro, basta. Questo l'ha detto Claudio, frequenza. E quelli però sono i clienti di prima. Magari un cliente l'ha comprato, no? Magari serviva la capsula. Magari dice che non si è trovato bene o che non va bene. Gli ha tolto la capsula, l'ha restituito, loro giustamente non è che lo aprono il microfono per vedere se c'è tutto dentro, e magari l'hanno rimesso incautamente in vendita e... Ehi, ama. Ehi, no, mamma mi diceva che c'è la strada con l'illuminazione spenta, e mi era sembrato di sentire prima che c'era tipo la zona di Ottava tutta al buio, causa temporale, ecco. No, ho capito comunque per il microfono, qualche cliente furbetto l'ha preso, si è tolto la capsula, l'ha riportato con una scusa, e giustamente lì non è che il venditore lo apre completamente il mic a vedere se c'è la capsula, se c'è il circuito, così, dai. Sì, ma se io compro un microfono e poi vengo da te perché questo microfono non funziona, alla fine mi rendo conto che non c'è la capsula, scusa un attimino, tu me lo devi cambiare, me lo devi sostituire. Invece ha detto che il microfono funzionava, che non è vero, ma vogliamo scherzare. Ma tu hai una persona grande, una persona seria, vai a dirgli che il microfono funzionava, quando invece effettivamente non c'era la capsula dentro. Oh, dai, sono cose assurde. Un commerciante quantomeno dovrebbe dire, va bene, dai, ce n'è un altro, e poi lui si sarebbe arrangiato in qualche maniera, avrebbe controllato, però tu al cliente non gli puoi far dare una risposta del genere. Mi hai venduto un microfono dove non c'era la capsula. Ecco, il discorso è questo. Non è che te l'ho comprato 10 anni fa, te l'ho comprato uno o due giorni fa, e poi lo attacco, non funziona. Alla fin fine ho capito che non c'era la capsula, in effetti era così. il discorso è questo, Marco. Avanti, Franco. Non si pensa proprio. Una volta mi ha detto, questo arrivo, ma dice, ma faccio una, noi sono tornato a mettere sul tetto per campagna, dice lui, no? Ma le tue cini, c'ho questo arrivo, ce l'ha avuto, l'ho 20 euro, ha detto, vabbè, dammela. Ma funzionate? Sì, sì, funziona. La piazza è campagna, giuro, e non c'era il tema. Andate a controllare e attaccate lo giro, tutto quello che la bugina è, dove caricare la bugina, mai io. Sì, ma di queste cose qua, ce ne sono sentite diverse. Ma quel ragazzino, se comprasse un microfono, 70 euro, o 75 che l'avesse pagato, caspita, e glielo dà con una bolla sulla targhettina che c'è sotto la monopola del volume. E insomma, controlli poi, cosa è successo, che era un microfono già usato, apre lo spinotto e c'erano tutte le saldature rifatte in maniera poi assolutamente bizzarra, e poi, allora cosa è successo? Prima o poi gliel'ha riportato, visto tante volte, tanti consigli che gli abbiamo detto noi, gliel'ha riportato indietro, e poi dopo tanto tempo non è che gli ha detto te che vi siete scusati, no? L'ha fatto aspettare fin quando non è arrivato un altro microfono nuovo e poi gliel'ha sostituito. Ma dimmi tu, se un commerciante si deve comportare così? Boh, io non lo so, ma comunque. Ecco perché dico, sono ladri, sono imbroglioni. Vai, Marco. Di nuovo, buonasera. Ehi, Ami, così lo sentiamo dalle cose tue anche. Della capsula che ti hanno dato un microfono senza capsula. E quello è un cliente lonfio, mi che l'ha preso il microfono, l'ha restituito, si è tolto la capsula e poi l'hanno rimesso in vendita, senza controllare se funzionava, per dire. Ah, dell'MP5000 stai dicendo? Sì, credo sia quello. Allora, in anima, l'usai vedo, la connessione vuole, ma cosa ho sbagliato? Ma può essere, che un microfono mi prende in giro, ecco l'Inoid, ecco l'Elbex, con la LAN 48, connessione alla 48, controllata col tester, metto l'altro, faccio i controlli, stessa connessione, colori rispettati, tutto a cui diventando manco, gli dico, ma non può essere. Poi tu, l'unica cosa che può essere che si sia staccata la capsula, ma aiuto un microfono è nuovo, comunque però sapere leggere e scrivere già è facile, tolgo il coperchietto, vado giù, capisci, non venire. Sì, infatti stavamo parlando di questi imbroglioni così, compreso Fusaro, infatti io poc'anzi, anche se tu non eri frequenza, ho fatto il nome tuo proprio perché stavamo parlando di questi particolari qua. Capito, tu hai un uomo grande, una persona seria che viene qui da anni a comprare materiale da te, che ti ha lasciato una banca di soldi nel corso di tutti questi anni, lo tratti in questo modo. Se io vengo, ti riporto il microfono, ti dico che non funziona, e come minimo tu cosa devi fare? Te, vabbè, lasciamelo stare, se ne un altro e via. Capita, e poi non mi credi se ti dico che ci manca la capsula? No, non va bene. Mi viene a dire, no, la capsula c'era e funzionava, il microfono funzionava, c'era dentro la scatola. Ma devo dire che era dentro la scatola. Tu mi hai dato il microfono che non va bene. Io ho fatto un po' un caso, mi sono permesso di fare il tuo nome, mi sei considerato che tu l'avevi detto in frequenza questo fatto, Ocla. Non stai scherzando, non c'è niente da nascondere. Guarda, io ne ho comprato tre nuovi, perché ne ho 3 MB più 5, più quello che ho comprato da Massimiliano, che è appunto connessione Kenwood, che mi serve per il Barrett, che è quello che stavo usando ieri, quindi ne ho 4 MB più 5 e 1 MB più 4, quindi 3 MB più 5 più 1 MB più 4 li ho comprati nuovi da lei. E ti sto parlando di l'ultimo, l'ho comprato 6 mesi fa, questa storia che è successa, capito? E sono andato e gliel'ho portato. Ho detto, guarda che questo microfono, guarda, io non ho toccato niente, le connessioni sono originali alla 48, ok, perché le ho provate col test, il microfono esce, provo a aprirlo e guarda cosa ci manca. E io non lo so aprire, allora provo a aprire, guarda, devi togliere questo coperchietto di plastica, la retina, guarda, non c'è niente dentro, manca la capsula. E mi ha detto, ma sei sicuro? Ma ascolta, ho macchero, mi sembra che ci conosciamo tantissimi anni, no? Quindi non penso che venire qua 60 anni a prendere in giro un commerciante come te, gli ho detto. Quindi, da professionista a professionista, questo microfono dammelo un altro per favore, e se non ti offendi lo apriamo e controlliamo se è in ordine il microfono. Lui si è aggiovato, grazie a Mbaddo, Giulio me l'ha cambiato, ma aveva questo dubbio, capito? Questo dubbio che io avessi tolto la capsula, e lo sembravo mania colazione la capsula. Infatti c'era Antonello, si è messo a ridere, tra Marzia, figa Claudio, io sono andato a casa sua, e il microfono è mia da vendere, quindi non penso che le serva una capsula. Ma no, no, non voglio, intanto era tentennendi, capito, non è stata lì, ah sì, non c'è problema, andiamo e te lo cambio. Ha fatto un po' di domande, capito? Appunto, dico io, ma tu come ti permetti in assenza a un cliente come ti permette di fare certe domande e di dargli certe risposte? Ma poi tra l'altro un cliente che era lì in negozio da sempre praticamente, ti era lì a passarmi più tempo in negozio che a casa tua, per tutte le spese che hai fatto lì, e tu mi vieni a contestare una cosa che ti sto dicendo a me, a un uomo grande, a una persona seria, non sono un bastardo che vado in giro a pregare la gente, no. Sono una persona seria che ho sempre lavorato, che sono sempre venuto qua in negozio a comprare con i soldi, che ho sempre pagato, non ti ho lasciato mai un debito, per cui ti sembra che tu mi rispondi in questo modo. Il diritto e dovere di questa persona doveva essere, vabbè, lasciamolo, se ne avevo un altro e basta, e finiva lì, senza fare questioni, perché ti stai tirando la zappa sui piedi, tu come commerciante, non sei capace a lavorare, non va bene così. Avanti Franco. Ciao Claudio, buonasera, comunque vabbè, così prendo le cose, però non lavoravo più, capito, il problema è quello. Tutto lì. E allora Claudio, lì a piove. Fra, ciao, non so cosa c'è anche tu. Buonasera, ben ascoltato. Sto arrivando fortissimo, 9 più 10 ti arrivando. No, non sta piovendo adesso. Qua in campagna sta piovendo, sì. Si è calmato, poi ripiove, poi dovrà calmare, poi dovrà fare. Andate a vedere se trovavo delle domande stasera, uno ce n'è una, tutti ne hanno svuotato tutto il casone. Tutto lì. Claro, rapporto per te 5 su 30 qua, in zona di campagna, Io sto pilotando sempre con 680 e l'MC60. Ultimo fra, 9.10 abbondante, quasi 9.15, fortissimo. Va benissimo la grande, radio ottima come sempre fra. No, io ho provato qua sotto da me nel giardino, una mangiata c'è, un po' di lumacone, ho fatto un po' di lumache, erano i bascendi, ma nel primo pomeriggio che ha smesso di piovere, capito? Però vabbè, qua è tutto recintato, quindi magari non ne fa nessuno, una mangiata c'è, dai, una mezza busta l'ho fatta. Avanti, Marcolino Condo. Ehi. Poi alcuni venditori hanno una disparità di trattamento, c'è, da venditore a venditore cambia molto proprio l'onestà, come la vogliamo chiamare. Basta pensare qualcuno di Lucca, da cui avevo preso un baracchino, che tu ben conosci Claudio, essere tenuto 8 mesi senza far niente, un apparecchio, dicendo che l'aveva spedito la Midland. E invece Feleco Elettronica, quando ha avuto problemi con due apparecchi, prima un ricevitore, no, che ha smesso di funzionare una fila di tasti, mandate l'email, nessun problema, sostituito, senza polemiche, senza cose, senza balle, sostituito, con uno nuovo, nemmeno riparato. Lo stesso quei portatili famosi digitali che avevo avuto, ti ricordi? Uno ha smesso di funzionare, non sentiva più l'audio, non sapevo cosa fare, mandato l'email, rispedito, sostituito con uno nuovo, senza polemiche né niente, vedi, così deve funzionare. Vedi, alcuni venditori fanno di tutto per non cambiartene, anche di questi online, oppure ti fanno mandare la raccomandata, il famoso modulo RMA, da compilare correttamente, tramite raccomandata, ti fanno fare un casino di roba pur di cavillare e cercare di non cambiartelo. Beh, poi quello di Lucca, cosa aveva? Quel baracchino l'ho regalato a Tex di Alghero, non mi ricordo il nome attivo, però mi sfugge. E beh, cos'era? Era un trimmer della M bruciato, no, un trimmer della potenza, bruciato, ha cambiato il trimmer e l'apparecchio è tornato come nuovo, per dire. Cioè non solo non l'hanno toccato, ma non l'hanno mandato nemmeno in garanzia come mi avevano detto invece. Molto molto scorretto, e tu già lo conosci, a te ti hanno mandato una, mi pare una KF con la, una scheda audio bruciata o cos'era, ricordamelo. Io a Franco Montemare gli ho comprato il PS850 usato garantito, perché lui dà le radio usate garantite, ma io non la provo perché compravo roba, avevo comprato le FT1000, avevo comprato un sacco di radio, ci siamo visti anche in fiera, lo conosco di persona, poi io sono stato alla fiera di Genova tanti anni fa, e quindi niente, me la manda, addirittura mi mandava le radio a me senza niente, senza nulla. Cosa c'hai di usato? Questo, com'è? Perfetto, garantito, mandamelo, senza nulla. Mi diceva solo quanto costava e me lo mandava. Poi lo provavo, lo telefonavo, guarda che sto facendo il bonifico, quindi fiducia per fiducia. Ma lui, non so che cosa è successo, gli è sfuggito, sono arrivato il PS850, sono andato a accenderlo perfettamente, tutto funzionante, non aveva audio, ho detto ma che sia l'autoparlante bruciato, e Franco non se ne è accorto, l'ho attaccato all'autoparlante esterno della Kenwood, niente da fare, nulla, niente da fare. L'ho chiamato e ho detto guarda che quella radio ha un problema audio, come può essere? Ti sto dicendo che ha un problema audio, sicuramente qualcosa sulla scheda audio, quindi lo sto rimandando indietro. Ho detto ma strano, perché ho revisionato qui, là, Franco ti sto mandando la radio indietro, gliel'ho rimandata, come gli è arrivata, l'ho messa subito al banco di prova e c'era la scheda audio bruciata, si è scusato attualmente, e me l'ha rimandata, tutto gratis, tutto, trasporto a carico suo, sia andare a tornare e riparazione. E l'avevo tenuta circa 2 anni e poi l'ho versata per prendere l'FT1000, capito Marco? No, ti ripeto, quando tu conosci il venditore e ti prende in una certa maniera e ti dice guarda, sicuramente mi è sfuggito, scusa, qui e là, allora va bene, ma quando uno, tu le porti una cosa o la compri e tentenne, ti dice ma come mai qui là, cioè fa delle domande un po' strane, quasi mancandoti di rispetto e di fiducia, non sono cose belle per un commerciante, capito? Perché nessuno è qua per fregare nessuno, siamo qua per comprare, per risparmiare, per avere roba seria, non di certo mondezza, che io mondezza non agio, posso avere radio anche adattate, ma con grandi, e sottolineo grandi risultati, sia come estetica e sia come funzionamento. Vai Giulio. Certo, ma è appunto, è così che deve funzionare, cioè un commerciante deve comportarsi così. Tu non puoi assolutamente diffidare di un cliente, ma mi fai 1000 domande, ma per quale motivo mi fai queste domande? Se vuoi sapere, ma mi ritieni una persona disonesta, cos'è? Tu commerciante hai l'obbligo, intanto, perché c'è anche una legge, quando un oggetto non funziona me lo deve sostituire, per l'obbligo di legge, per cui non è vero la ragione perché deve fare tutte queste domande così, ma non è possibile. Questo qui non è un modo di lavorare, è un commerciante, è quello che non sa lavorare, o è un disonesto oppure non sa lavorare, e io l'ho preso a questo modo. Vabbè, dai signori, con questo ultimo passaggio io vi saluto, devo scendere giù a cenare, per cui vi ringrazio per il QSO, ciao Claudio, ciao Marco e ciao Franco, salutoni a tutti e tre, ascolto il vostro filalino e dopodiché chiudo. Avanti Franco. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, buon caricabatteria, ce l'avete ascoltato le prossime ore. Vai questo così, vai Claudio. Forse l'hanno chiamato. Ciao Giulio, dai, buona sera, buon tutto. E ci sentiamo le prossime. Ok? Claudio? Claudio ci farà a domenica. No, sicuramente non la faccio vedere al corso. Fatti per un attimo, in realtà non andare a te dove si compra. Perché sono prendo delle belle fregature allucinanti, capito? E cosa c'è che da fare azienda, non detta, poi non era più tenuta di un riso. Sotto lì, no, stavo vedendo la cordatura, c'è cioè, a posto. Va bene. Ciao, passaggio, Marco, per un rapporto. Un rapporto di segnale radio? Ah. Mi fa come prima, tra 8 e mezzo e 9, è radio ottima. E tu c'è 9, 9, 10, sta. È radio super 5, Claudio, sicuramente sta facendo qualcosa. Tutto lì. Credo comunque ne abbiamo tutto lì a Sassa, No, no, sono qua, scusate che stavo rispondendo a mia moglie. Claudio, sì, questa radio è fenomenale qua. Nonostante tutto, era fermo un paio di anni, continuano a sempre. Quelli sono i Caterpillar, capito? Te l'ho sempre detto, continuo a dirlo, vita naturale durante. Le migliori radio che ha fatto la Kenwood Vintage sono 140 e 80. Se io dovessi lasciare 440 fermo 2 mesi, 3 mesi, è un casino. Mentre il 430 no, 430 è già diverso. 430 io me lo sono portato anche in campagna, anche se non lo usavo, ascoltavo solo in HF, però era sempre acceso. 440 fortunatamente quando sono andato a accenderlo a casa ha funzionato subito. Adesso sto usando il 430 ad esempio, 440 è spento. Dopo faccio un passaggio con la 440 a vedere. Però siamo lì. Le migliori sono quelle fra le puoi tenere anni e anni, io mi ricordo mio dito l'ha tenuto anni fermo dentro l'armadio. L'ha tolto, acceso, collegato, perfetto. Vai tu e frua al 440, chi non attende più, vai giù. Giulio ha chiuso, vi ha salutato. La batteria. Sì, in questo momento così, sono della bella radio, ma io qua, su spendere soldi, su barattini, non spenderò mai più spendere soldi in barattini, perché a parte che sono di Boncino, capito, non sono lavorare queste qua, queste qua sono della radio, sono completamente diverse da qui. Quella, Fran, non è quella però che ti avevo dato io, quella è un'altra. Quale? Questo c'è 80. Questo è su quello che avevo dato tu, c'è 80, questo sto trovando adesso. Ma questo picchia a poco, questo qua, lo metti a 50 e ce ne va oltre 100. Sì, glielo conosco, me l'avevo fatto per me quello, figurati. Quello è tirato, quello è una bella bestiolina, in M da 150 watt, quello quasi 200 in banda laterale, è ben messo, poi nuovo, tienilo conto perché è una bella radio quella. Cosa stavi dicendo, Marco? No, che Giulia aveva chiuso, è andato a cena. Non ho neanche salutato, mi sono allontanato, ma un secondo, avevo la radio accesa, non ho sentito perché mi ha chiamato mia moglie, voleva una mano in cucina. Va bene, un saluto allora Giulio, dai, buona serata anche a lui e buon tutto, che si è fatta per le 8:10 e ancora presto, dai. Va bene, no, fra io, noi siamo rientrati, intanto il tempo è brutto, per stare chiuso in campagna, preferisco stare a casa, c'è mia figlia, vabbè, lo abitiamo lì, quindi non c'è problema. Ad esempio stanotte mi sembra che venga a cena a casa, figurati. Così mi stava dicendo mia moglie, quindi Mario ancora non si è visto, sicuramente ancora in officina, l'aria esce alle 9, quindi dovremmo aspettare loro, dai. Va bene. Dipende, fra. E l'antenna cosa stai usando? L'hai montata poi l'antenna grande? Ah, ce l'ho in garage, la moto va a 5. Devo sistemare il radiale sempre, l'ho comprato in alluminio ma non mi piace niente. E quindi sto utilizzando una boomerang, di quelle boomerang antiche, non so se lo conosci, quelle che c'hanno appunto, c'è una frusta nera dalla radiale, e lo tiro centrale e pare che 2 metri o qualcosa. 2,75, sì, quelle vanno bene, vanno molto bene. Ne avevo piazzato una nella magatia, lì via Cosio. Allora sole arrivava bene a tutte le parti, c'era ancora, mi sembra, piazzata nella ringhiera, figurati. Va bene, no, io quella che mi ha dato Gianni, la mantova l'ho tutta sistemata, tutta revisionata, ho boccolato dove ci vanno i radiali, ho messo i radiali su originali in fibra che ce li avevo, e l'ho montata in campagna, ti dico che arriva una canonata, Sassari siamo tutti sul 9:20, 9:30. Davvero, poi non ne parliamo, Porto Torre, Sennori, va bene. E qua lo stesso c'è la Mantova, sempre Mantova 1, è la migliore in assoluto, non c'entra affatto. Va bene, avanti, Marco. Via. Bene, fra poco vediamo se c'è in TV. Mi ha chiamato Bodale, ma se ci pigliavamo un caffè io manco voglio riuscire, proprio oggi sono tenuto da casa e no, non ho voglia, sono stanco senza far niente, e quindi se ne parla. Poi c'è molta umidità fuori, non mi piace uscire nemmeno così, se non avesse piovuto è un conto. Vabbè, capiterà. Bodale, che è il Bodale? E Ivan. Ah, saluto, non sono tanto, non siamo visti, ma non ci stiamo sentendo al telefono, mi avevo chiamato, avessi tutto a posto. No, io domani, oggi niente, domani molto probabilmente vado a vedermi la partita, inizia il campionato domani con degli amici. Andiamo a cena in un locale, ci guardiamo la partita, ci Juventus Sampdoria, la prima, così, giusto per svagarmi, visto che sono tutta la settimana casa e lavoro, abbiamo ripreso un po' a fare qualcosa, adesso perché poi prima di fine mese devo andare un paio di giorni fuori, avrò dei lavori con mio cognato e quindi sarò assente anche dalla radio. E domani me ne esco, domani sera. Mi ha autorizzato mia moglie, vai, mi ha dato 10 euro, mi ha detto non spenderle tutti, portami il resto. Ehi, poi con l'antenna te l'avevo indicata, quella piaceva anche a me, ma poi io la uso per il ricevitore in macchina, Eppoli. So che ne ho talmente tante, che poi non so mai quale scegliere, lo sai, per portare il ricevitorino in macchina quando faccio un giro. Ammazzi, molte sono, vabbè, piccoline, poi c'hanno quel cavettino sottile da 3 mm, no, già quello perde un po' di segnale, dai. Però con una base magnetica normale e una Diamond vera, ci sono anche le imitazioni, Claudio, per esempio l'imitazione costa 18,50 euro della Falcos, però non lo so, magari non risuona bene, io andrei sul sicuro, Diamond, se no c'è un bel di imitazione, di original, scritto così, di original, Oxen, Proxel, tutte uguali, tutte le copie quasi identiche della NR770S. E poi chi lo sa, magari può darsi pure che vadano al pari di qualità, che vadano bene lo stesso. Però io un po' prevenuto sono. Una è giapponese, l'altra è la Cino copia, capito? No, ma io avevo trovato la NR770S e andava molto bene, anche esteticamente era molto bella, quindi non cambio. Adesso però 2 minuti chiamo a un amico su in continente, ma a parte il fatto, ti ripeto, voglio aspettare perché devo andare a Reggio Emilia con mio cognato a vedere dei lavori e quindi partiamo praticamente di giovedì e faccio venerdì e dovremo rientrare sabato praticamente, capito? Se tutto va bene, insomma. E venerdì sera faccio un salto a Reggio Emilia, c'è un negozio che vende un po' di tutto e guardo se c'è la NR770. Me la compro direttamente senza stare a ordinare niente, capito? Tutto qua. E mi volevo portare il VHF, il veicolare, con la base magnetica per farmi due chiacchiere lì con qualcuno del posto, insomma, ecco, tutto lì. Per quello volevo mettere la radio, ma poi alla fine non me ne fu tenuto. Avanti, Califfo, tutto a posto? Sì, Lucia, sta bene? Califfo? Dai, vado a fare carica batterie, saluto anche a Marco, non carica batterie con il Claudio, anche a te, se ci siete nel prodotto, dai. Ok, saluto a Correa e saluto in casa, ecco, da parte vostra. Ciao Fra, salutami a Lucia, dai, un abbraccio a tutti e due, già ci riascoltiamo. E io non so, dopo c'era, non sto entrando quasi niente, diciamo quasi mai, perché mi guardo un po' di TV e mica la maieggio, anche stamattina mi sono fatto molto presto. Ciao Fra, un abbraccio, dai, già ci riascoltiamo, vai Marco. Ciao Franco, buona cena, buon tutto e alle prossime, dai. Bene, lei, sì, se la trovi lì, prendila lì. Mm. Poi poi boh, le imitazioni costano meno, non lo so, magari vanno bene lo stesso, da provare. Tanto non, tu non sei assiduo, nel, non è che ci prigioni con la radio in macchina, e quindi se proprio non è perfettissima o ha una resa eccezionale, insomma, no, non ti farei problemi, dai. Tanto una volta che sei su, che agganci i ponti, viaggi già su ponte. Sì, non c'è problema, ma ti ripeto, è una cosa così, poi alla fin fine non la porterò neanche, perché non c'è manco tempo, se vai a contare, non c'è manco tempo. Capito? Non c'è manco tempo, perché lui voleva andare in macchina, io gli ho sconsigliato, andiamo in aereo, facciamo Fertiglia a Bologna, Bologna, Reggio Emilia, sono mezz'ora di treno, diciamo, cazzo, treno, non c'è vado, qui, là, vabbè, fermati, ti biazzi, se vuoi andiamo in macchina, io vi dico. E quindi, sai, in macchina ti fai due chiacchiere, ma non lo so, è una cosa che devo vedere. Comunque, l'antenna vado a vedere se c'è, capito? Quindi non c'è problema, perché mi ricordo c'è un negozio da Reggio Emilia, ha lavorato anche mia figlia a Reggio Emilia, io sono stato 4-5 giorni, ho fatto alcuni giri così nella città e ho visto che ce n'è negozi, c'è anche la GBC, figurati, ma ci sono anche negozi che vendono radio, ci sono negozi che vendono attrezzature, antenne, queste cose. Quindi mi ricordo che era lì al centro, vicino alla stazione, insomma. Va bene. Quindi tutto qui. Sì, no, Marco, no. Non ho voglia, va. Se fosse stata bella giornata, magari sarei anche uscito a prendere un caffè, una cosa, a fare un giretto, no? A me queste giornate così no, non mi piace uscire, mi piace stare a casa, a calduccio. Non me la futti nulla, capito? Tutto qua, quindi hai fatto bene a di là che non uscivi, perché c'è molta umidità, c'è questa pioggerellina, adesso leggera, penso che però stanotte non faccia temporale come ha fatto già, perché è già passato, capito? Eia, comunque male che vada, mi Claudio, ti porti il portatile, boh, se vai in aereo o anche in macchina, ti porti il portatile. E così quello, dall'albergo, da dove albergate, non so dove, o anche così, dalla macchina. Alla fine il portatile gira nei viaggi è la cosa più comoda, nemmeno il veicolare, il portatile. L'importante è se la portata di quantomeno di ripetitore. No, usa albergo, siamo ospiti di un amico impresario di mio cognato, niente di... tra l'altro questo fa parte della società, quindi sto andando io a fare compagnia, no? Hanno delle cose da vedere, delle cose, insomma, come si fa, eh? E quindi ho detto, vengo anch'io, ci faccio un giro, tanto mi interessa, non ho niente da fare, quindi faccio compagnia a lui, io vedo, no, questi lavori, queste cose, hanno alcune cose da vedere amministrative, io mi faccio un giro in città perché la conosco, dico la conosco, è una parola grossa perché Reggio Emilia è molto grande, però mi sono muovo lì, dai, vicino, perché ho lavorato per tutto il periodo estivo, adesso non mi ricordo se 7-8 anni fa, forse anche di più, mia figlia, e quindi ci sono andato con mia moglie, siamo stati lì una settimana, capito, perché c'aveva la casa, una casa in affitto, lui lavorava in una società alberghiera, quindi una bella città, molto molto fredda, molto umida la notte, molta nebbia, una città un po' strana, un po' particolare, però di giorno è bellina, vai. Se becchi brutto tempo già è brutto come qua, se no già fa una giornata bella anche lì, a voglia. E poi il bello che in Emilia ci sono le emiliane, sono molto calde, dicono. E infatti mi fanno una bella mangiata di cose, come si chiamano, quelle emiliane che fanno molto molto gusto, si mangia molto bene. C'è la moglie di questo, ho detto che la moglie di questo, ci sono stato già altre volte, ho detto la moglie di questo, fa certi piatti, una cosa allucinante, ho detto io. e poi c'è il vino buono, c'è roba buona. Vabbè, andiamo, battiamo, vamos. E state a stare un giorno e mezzo praticamente. Faremo giovedì notte a cena con loro, venerdì poi loro ci avranno questa riunione, queste cose, come vado in giro col figlio di questo qua, che c'ha insomma del posto, e poi pranzeremo insomma così, poi sabato si riparte. Non so, io sono andato in aereo, mi sono andato in aereo, ho fatto Alghero Bologna Reggio Emilia, ti dico, perché fa Bologna Modena Reggio Emilia Napoli diretto, quindi è molto veloce, è velocissimo. Perciò ero un altro tratto, tipo il trolley piccolino, c'è stato fare in macchina, caselli, contro caselli, casini, ma siccome già lo so cosa vuole fare lui, no? Vuole fare spese, quindi ha bisogno di caricarsi la macchina. E tu anche, mi, quando vedi quei negozi belli di elettronica, di radiantistica, cosa vuoi tornare a mani vuote? Due o tre apparati li devi prendere almeno. No, guarda, non mi porto manco un soldo, che mia moglie mi ha già avvisato, se torni con qualche radio a Reggio Emilia non ti faccio entrare. Ecco, vabbè, per quello non è un problema, lascio anche il cofano di mio cognato, che quando non ce l'hai la porto su. Capì? No, Marco, radio ne ho da... Guarda, non voglio vantarmi, ma un negozio no, lascia aperto. Questa ultima sono contentissimo, sto bene così. Va bene così, magari qualche stronzata, se c'è un bel negozio, se c'è qualche microfono che non ho, non so, qualche strumento, qualche fesseria, vedi, se c'è un negozio che dico io l'ho già visto, l'ho anche comprato tanti anni fa, però non so se è ancora esistente, mi faccio il carico dei connettori, PL, connettori, attacchi N, BNC, tutte quelle cose lì, che qua non ci sono, vai a comprarle, te le fanno pagare una barca di soldi, se vuoi ordinarle te le fanno pagare una barca di soldi, quindi queste cosettine è importante comprare, capito, non lo vai fuori così, ma non radio cosa ne vai, radio ne abbiamo. Sì, è vero comunque, le minuterie, minutaglie tipo PL, soprattutto quelle in bacchelite, che qua ne arrivano pochi e ti fanno anche pagare, poi li finiscono e devi aspettare mesi. Adattatori, quelle cose molto utili, anche adattatori microfonici se necessario, ma forse per quelli c'è già il completo. E ogni tanto anch'io dovrei fare conteggio, piccole cose, barilotti, che ne so, il doppio PL femmina, quelle cose lì che ogni tanto servono, infatti me ne serve uno, poi quando lunedì andrò a Fusaro vediamo se ne hanno, perché devo fare una prova con un antennino. Ok, bene Claudio, io adesso sto entrando nella fase a biocco dolcemente e mi accendo la TV, tanto di sera, di notte non sto più accendendo perché, ma nemmeno Pomponio entra più, non è notato, forse perché Simona non sta bene, non sta bene, quindi anche lui non sarà dell'umore giusto, dai. Non ho più sentito nemmeno Gianni al baracchino, vabbè che non sta entrando quasi nessuno sul 10, quasi nessuno. E quindi vabbè, dai, quando c'è gente ogni tanto posso accendere, precare, entrare, se c'è un discorso così da portare avanti per passare il tempo, si può fare, dai, come oggi, quanto siamo? Un'oretta, sì, Giulio è entrato circa un'oretta fa, una parlatina così, niente impegnativo, ma ti ricordi 10 anni fa che stavamo dalle 3 di pomeriggio, tipo 3:30 di pomeriggio fino alle 8:30, 9:30, cioè erano anche da esaurirsimi, a parte che mi andava via la voce. Sì, beh, erano altri tempi, ma mi ricordo io che avevo alle 5, alle 6 del mattino, dolce a lavoro, capito? Mi ricordo, quando si andava, mi ricordo perfettamente. Sì, ma alla fine, vedi, ieri siamo entrati, abbiamo parlato un po' di radio, abbiamo parlato un po'. A volte io rimango in ascolto. E le uniche persone che fanno questo, che veramente è piacevole ascoltare, è Giulio con Gianfranco, tu con Gianfranco, a volte se ci sono io, magari abbiamo un QSO di radio, di elettronica, di cose. Non puoi stare tutto il giorno come sto scendo, come sto scendo, prova qui, prova là, tira, molla, fai, mamma mia, ho sempre le stesse domande, qua stai usando? E che microfono è? E che radio è? E quante volte stai usando? E che cazzo, basta, mamma mia. Quindi a volte la gente neanche poca voglia di entrare, capito? Se si entra per parlare di alcune cose importanti, non importanti, avevamo il discorso del Covid anche stamattina, ho fatto le chiacchiere con Emanuele, cioè qualche argomento lo devi tirare fuori, ma non puoi stare sempre parlando delle stesse cose, altrimenti diventa anche monotono e brutto per chi ascolta e per chi partecipa anche a questo stesso. Secondo me poi, le prove si possono anche fare, ma si devono fare e finire, non è che vuoi fare tutta la sera sempre una matessitoria, se no addio. Va bene Marco Condor, va bene, io lo stesso, che ore sono? Le 8:30? Sì, sì, sì. Adesso coinvolgo mia moglie a mangiare boccone perché lei ancora sta guardando la sua telenovela che è Maria De Filippi con Uomini e Donne, lei se lo guarda la sera perché dopo pranzo anche lei si riposa e quindi aspettiamo, dai, va bene. Ok Marco, grazie delle due chiacchiere, ci aggiorniamo, eccetera eccetera. Io l'unica cosa che farò, guarda, quando vado cerco questa antenna perché me la voglio prendere, l'antenna per la macchina seria come avevo prima, non si sa mai che mi serve. E poi un po' di minuteria, per il resto, guarda, guardo se trovo un MC60 usato, o se c'è anche nuovo, se a buon prezzo, perché me ne manca uno, sto usando il Q5 testato Kenwood sul 701 della Kenwood, del bibanda amatoriale, perché non ho altri microfoni da poterli mettere, quindi. Ehi. Ok, dai, ci sentiamo, quando capita, lo sai che io sono molto incostante anche nell'attività radio, così, va molto umore, a malesseri, a commissioni che qua non mancano mai, ogni adivene una, dai, ci sentiamo nel prossimo, ok, quindi buona cena, buon tutto. Che altro dire? Un bacione? Altrettanto, altrettanto. Un bacione virtuale, un abbraccio virtuale, dai. Ci ascoltiamo Marco, saluta mamma. Purtroppo è così, io ho quasi lo stesso problema. Mia madre non cammina, oramai è così, è così. Capito? È sanissima di cuore, mentalmente, non ha nessun problema, però purtroppo non cammina più. E col baccolino, piano piano, 86 anni, quindi quando si arriva a quell'età o ci arrivi con un margine praticamente quasi sano, ma quando ci arrivi già con un margine un po' così acciaccato, alla fine insomma ti siedi, perciò non ti preoccupare. Piano piano, dai, ok, ciao Marco, un abbraccio davvero, ci sentiamo, grazie alle due chiacchiere, un saluto a tutti quelli che ascoltano, ciao, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, ciao.